se penso che adesso io non ti conosco, adesso un po' ti detesto e un poco mi piaci, per questo tu chi sei, mi sorprende tutto quello che fai. E poi thank you.